Allora, Maura, ex lavoratrice all'Italia, lavoratrice dell'ex all'Italia, questa mattina i lavoratori ex all'Italia, iscritti alla Cultrasport, iscritti all'USB, sono in presidio qui in via Molise, sede del MIMIT, sede del Ministero del Lavoro, dove si terrà un incontro. Se puoi spiegarci le ragioni della mobilitazione di questa mattina. Sì, buongiorno, grazie soprattutto per questa opportunità di dire ancora un po', di spiegare un po' la situazione. E intanto ricordiamoci che in Alitalia, amministrazione straordinaria, ci sono ancora più di 2.500 lavoratori che beneficeranno degli ammortizzatori sociali soltanto fino a ottobre 2024, dopodiché inizia la NASPI, quindi è un licenziamento collettivo di 2.500 lavoratori ex Alitalia, di vari settori, terra, volo, manutenzioni, handling, eccetera, ma sono 2.500 lavoratori. Siamo qui per chiedere innanzitutto quello che è il nostro obiettivo iniziale da sempre, avere cioè di nuovo un lavoro. Le tre società da cui si è in cui è stata smembrata Alitalia avevano dei piani inizialmente che prevedevano la riassunzione di tutti quanti i lavoratori, cosa che non sta avvenendo, erano piani fantasiosi e si stanno dimostrando tali, quindi non ci sono le giuste assunzioni né in ITA per la parte volo, né in Swissport per la parte handling e nemmeno in Aditec per la parte di manutenzione. Quindi noi chiediamo per prima cosa di essere riassunti secondo i piani che erano stati stabiliti. Nell'attesa, siccome appunto la gente non può essere buttata in mezzo a una strada, né in NASPI o comunque non può essere licenziata, chiediamo che ci sia un prolungamento della cassa integrazione per coprire questi eventuali piani. In questo momento continuiamo anche a pretendere tutto, a chiedere una serie di regolarizzazione dei pagamenti perché la cassa integrazione viene pagata male e con errori continui, con ritardi continui e quindi chiediamo anche che ci sia uno sforzo vero da parte di tutte le istituzioni perché questi pagamenti vengano fatti in maniera regolare. E al Ministero del Lavoro abbiamo anche tutta un'altra serie di questioni relative ai reintegrati delle varie aziende dopo vari licenziamenti ai quali l'INPS sta chiedendo dei rimborsi, di riavere tutta una serie di soldi che sono stati dati in cassa integrazione che sono superiori a quelli che è l'indennizzo che viene dato dalla legge Fornero a chi appunto ha perso il lavoro e viene poi reintegrato. Quindi sono molte le questioni ancora, i giornali continuano a dire che per gli Alitalia è tutto risolto, che sono stati scongiurati anche i licenziamenti, non è assolutamente così e noi continuiamo a stare in piazza per ottenere quello che ci spetta. Ultima domanda, Alitalia, Stellantis, Silva, c'è tutta la componentistica, i licenziamenti alla GKN dei Campi Bisenzio momentaneamente sventati, c'è in corso un pesante smantellamento d'apparato produttivo nel paese, Telecom, aggiungo, a quando iniziative di convergenza tra questi vari settori in lotta? Questo è l'obiettivo, se non capiamo che l'unico modo per provare a scongiurare tutto questo è trovare un punto di contatto, visto che le problematiche sono uguali, la deindustrializzazione impatta su tutti i campi e c'è una volontà propria di cancellare il lavoro oppure renderlo più povero laddove vengono mantenuti piccoli presidi. Quindi l'obiettivo deve essere necessariamente quello a tutti i livelli, unendosi anche con altre forze che in questo momento sembrano non avere problemi, perché il problema, ripeto, è generale, strutturale. Piano piano coinvolgerà qualsiasi tipo di settore. Non altro aggiungere anche la componente studentesca che ovviamente vive una situazione di pre-industrializzazione, cioè sono orientati a un tipo di lavoro e a un tipo di utilizzo della manodopera appunto che già vede già questo. Quindi diciamo che è fondamentale un'unione, è fondamentale l'ampliamento della base di lotta perché sennò non se ne esce. Ok, grazie Maura. Grazie a te.